e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oh, eccoci finalmente insieme, sono le 10.33. Io e Deborah vi stavamo aspettando per andare a scuola, perché come sempre ci aspetta la nostra scuola del risparmio del giovedì, ma prima pronti a ripassare le regole, a prendere appunti per un sonno a 10 e lode. Domani in tutto il mondo si celebra la giornata del sonno e noi a Cuore Denari giochiamo un po' d'anticipo per darvi modo di prepararvi. Perché passiamo un terzo della vita dormendo, ma per circa 12 milioni di italiani il sonno è un sogno. C'è chi fa fatica ad addormentarsi, chi si sveglia non si addormenta più, chi dorme a singhiozzo, c'è chi vorrebbe dormire ma non può perché deve fare i conti con i crampi, le gambe che non trovano riposo, o con il partner che russa come un trattore. Insomma, di notte ne capitano tutti i colori e la notte diventa bianca. E a voi come va? Che voto date al vostro sonno? Quante ore riuscite a dormire e come dormite? E di che qualità è il vostro riposo? Potrei chiedervi come vi alzate al mattino e come vi sentite. Rispondete e chiamate, fatevi aiutare dai nostri esperti, perché ci sono tante buone ragioni per dormire bene o per ritornare a farlo. Il sonno, l'abbiamo detto tante volte, è essenziale per la vita e per la nostra salute, ma anche per trasportarci nel mondo dei sogni. Dormire bene non è un sogno, e di sonno e di sogni parleremo tra poco con due grandi esperti. Quando parliamo di sogni pensiamo ai nostri desideri più grandi, a ciò che ci renderebbe felici. Tra l'altro sai, Nicoletta, che proprio questa domenica, il 20 marzo, ricorre la giornata mondiale della felicità delle Nazioni Unite. Certo. Ieri è stato presentato a Roma il rapporto mondiale della felicità 2016 che classifica, esatto, 156 paesi in base al loro livello di felicità, non solo il PIL, insomma, ma ci sono tanti aspetti da considerare. Se pensiamo ad un sogno che ci rende felici, partendo dal punto di vista dei denari, sicuramente c'è quello di avere un futuro tranquillo, una vecchiaia economicamente serena. Allora, oggi noi, nella nostra rubrica Investire Informatica, Nicoletta ha anticipato, torniamo non a caso a parlare di investimenti a fine pensionistici. Abbiamo visto tutte queste turbolenze di borsa dall'inizio dell'anno, ma hanno dato fastidio ai rendimenti dei fondi pensione? Pare di no, quindi il fondo pensione ha fatto quello che doveva fare, proteggere il denaro delle persone che fanno questi versamenti, e noi ne abbiamo tratto l'occasione per ripercorrere insieme l'ABC del fondo pensione, le differenze principali fra i vari strumenti e le novità fiscali che sono arrivate nell'ultimo anno. Voi avete pensato ad una pensione integrativa? Raccontatecelo all'800 24 00 24. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Schopenhauer. E allora, come anticipato del nostro sonno e dei nostri sogni, parleremo oggi. Quindi, se avete passato una notte in bianco, agitata, appassionata, se avete dormito male, se vi siete svegliati più stanchi di prima, usate il nostro numero verde, ma chiamate anche per raccontarci che sogno avete fatto o per capire perché i vostri sogni come una magia svaniscono senza lasciare traccia. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano, che ci aggiornerà sui risultati delle ultime ricerche nel campo del sonno, perché la ricerca, dottor Nobili, intanto buongiorno, non dorme mai. A tutti. Benvenuto. No, la ricerca non dorme mai. No, assolutamente, ce ne sono sempre continue, nuove, è quasi difficile sintetizzarle. Forse legata all'argomento di oggi, legata ai sogni, quello che alcuni studi recenti hanno confermato, una cosa che già in qualche modo si sapeva, ma confermandola da un punto di vista, diciamo, più neuroscientifico, che la fase del sonno in cui sogniamo, indipendentemente dal soggetto se si ricorda o meno i sogni, è estremamente correlata alla capacità di ricordarsi le cose che hanno un forte valore affettivo. Quindi probabilmente quella fase è estremamente importante per il ricordo, e tanto più le cose che abbiamo fatto hanno un legame affettivo, tanto più facile che abbiano una relazione col sonno REM, quindi è un altro ruolo importante. Questo d'altra parte ci spiega perché il sogno è sempre stato un po' la finestra per comprendere anche le nostre emozioni. È vero, È magnifico, un territorio veramente magico. 800 24 00 24, il nostro numero è magico ma è anche verde, e dottor Nobili ci terrà svegli in questa prima parte della trasmissione per darci tutti i consigli e le indicazioni necessarie per aiutarci a migliorare la qualità del nostro sonno, a individuare anche le possibili cause che possono disturbarlo, perché ci sono tanti tipi di insonnia, ne parleremo nel corso della trasmissione, ce la descriverete voi anche partendo dal vostro caso, potete raccontarcelo, ma se tutti possono, dottor Nobili, mettere in conto di avere un periodo di notti un po' disturbate, la paura è di diventare insonni cronici. Tra i vari tipi di insonnia, dottor Nobili, qual è quella più a rischio di cronicizzare? Detto benissimo, le insonnie non sono una sola, ce ne sono di varie forme, diciamo si possono riassumere in tre: quella che soggetto che fa fatica ad addormentarsi, poi ha un sonno continuo, soggetto che invece si addormenta facilmente e si risveglia dopo poche ore, dopo un paio di ore, e quello che ha invece risvegli multipli e un insieme degli altri due fenomeni. Quest'ultimo gruppo è sicuramente il gruppo che più ha a rischio di andare incontro a cronicizzazioni. Dottor Nobili, uomini o donne? Chi dorme peggio? Se preferisce, qual è l'identikit dell'insonne? Questo cambia un po' nel corso dell'età e dipende appunto assolutamente dal tipo di insonnia. Sicuramente, ad esempio, sappiamo che nel sesso femminile l'insonnia diventa prevalente quando si entra purtroppo nella fase della menopausa. Qui c'è veramente un picco sì di insonnia, ma anche di disturbi dell'umore. Ci sono delle forme di insonnia, se pensiamo a quella associata a disturbi dell'umore, che sono più frequentemente associate a un risveglio precoce. L'insonnia più legata al disturbo d'ansia è la persona che fa proprio difficoltà a prendere sonno, classica tipo è la paura del non dormire. Quindi questa, noi sappiamo che la prima causa di insonnia è proprio la paura del non dormire o il voler costringersi a dormire per forza. Questo è assolutamente ciò che gioca poi a sfavore e impedisce proprio lo sviluppo del sonno. Possiamo chiedere ai nostri ascoltatori di iniziare a valutare, verificare se hanno la paura di non dormire o se cercano in qualche modo di mettersi a dormire per forza, perché magari per recuperare una settimana particolarmente faticosa, qualche notte bianca. Dottor Nobili, però ci sono delle persone che non vedono l'ora di lamentarsi del loro sonno, ti aspettano, no? Di quanto dormono poco, male, di quanto sono stanchi. Lei li vedrà tanti. Ne vedrà tante di queste persone, ma le incontriamo anche io e Deborah, perché chi non ha l'amico, il compagno che ti dice anche stanotte è andata male. Allora sono giorni, mesi, anni di infiniti lamenti, tanto che c'è da chiedersi: ma non dormirà davvero come dice, oppure pensa di non dormire ma in realtà riposa? Insomma, l'insonnia sarà un problema vero o presunto, dottor Nobili? No, questo ha toccato il punto su un'altra forma ancora di insonnia che prima era classificata come insonnia ad alterata percezione, cioè sono soggetti che in realtà in termini quantitativi dormono una quantità di ore sufficienti, ma riferiscono di non dormire nulla perché si svegliano ripetute volte durante la notte anche per pochi secondi, a differenza di un soggetto normale che si rigira e non si ricorda nemmeno di essersi svegliato, l'insonnia apre gli occhi e immediatamente guarda l'orologio. Quindi questa è una delle cose peggiore per l'insonnia, cioè guardare e controllare l'ora durante la notte, voler vedere quante ore abbiamo dormito, quanto tempo rimane, non fa altro che aumentare ancora la paura di non dormire e la percezione di non aver dormito. Purtroppo il tempo passa inesorabile, quindi dico sempre ai pazienti: non vogliate controllare l'ora di notte, togliete assolutamente l'orologio e soltanto nel caso in cui vi sembra di essere rimasti a letto troppo tempo, allora in quel caso alzatevi. Capita allora che il paziente al mattino poi mi dice: guardi, mi sono svegliato ma non mi sono mai alzato. Questo significa che probabilmente si è svegliato per pochissimi secondi. Queste sono insonnie ad alterata percezione che vanno individuate, perché sono quei pazienti che rischiano di prendere molti farmaci senza avere alcun beneficio. Allora chiamateci subito in modo da approfittare della consulenza di Lino Nobili, qualunque cosa vogliate riferire del vostro sonno, di quello che chi vi dorme accanto, non perdete questa buona occasione. Scriveteci anche, che so, una domanda, una curiosità a cui non siete mai riusciti a dare una risposta, perché dormire è necessario e ci fa stare bene, questo lo sappiamo, lo tocchiamo con mano, perché basta non dormire per qualche giorno di fila per rendersi conto di quanto cambino le nostre vite vita, le nostre relazioni, il livello di resa sul lavoro, il nostro umore, ma questi disagi, che ciascuno di noi lo sappiamo, no? Avverti in modo più o meno marcato, si aggiungono a lungo andare anche i danni per la nostra salute. La mancanza di sonno è correlata a patologie che interessano il cuore, la memoria, la fertilità, ma non finisce qui. Pensate che secondo uno studio britannico del 2013, il poco sonno arriverebbe addirittura a modificare i nostri geni. Ma c'è un altro svantaggio a non dormire. Chi non dorme non sogna. Può sognare ad occhi aperti, questo è vero, ma è tutta un'altra storia, un altro luogo. C'è un luogo dove accadono le cose più strane, dove il tempo e lo spazio sono oggetto di una beffa continua, dove convivono il tragico, il grottesco, l'assurdo. Questo luogo è il sogno. A metà strada fra preistoria e fantascienza, il sogno è anche il luogo di tutte le ambiguità, l'anagrafe di tutti i fantasmi che popolano la nostra mente, lo spazio dove si incontrano persone e cose della vita, ma che più spesso esistono solo lì e non hanno alcun riscontro nella realtà. Sogno, luogo di tutte le ambiguità. È puntuale e raffinata questa descrizione del sogno che fa Luigi Malerba nel suo libro La composizione del sogno, edito da Einaudi. E dato che il sogno rappresenta una parte di noi, della nostra vita cerebrale, affettiva ed emotiva, noi partiremo oggi proprio dai nostri sogni, direi anche dai nostri sogni, per capire qualcosa di più della qualità del nostro sonno, ma anche per raccogliere informazioni sul modo in cui affrontiamo la vita o viviamo le nostre emozioni. Ci aiuterà il professor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che è già in linea con noi. Buongiorno, dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ospiti e ascoltatori. Professore, prima di andare alle informazioni sul traffico, ci faccia un po' sognare, ci dica come ci aiuterà a interpretare i nostri sogni, perché il sogno qualcosa di noi lo racconta, ma noi non abbiamo spesso i codici per decifrarlo. Che fare? Da dove partire, professore? Certo, perché il sogno in realtà è una comunicazione della persona a se stessa, che però si concretizza nel raccontarla a qualcun altro o nell'immaginare di raccontarla a qualcun altro. E se avremo degli esempi che i nostri ascoltatori ci presenteranno, vedremo come la interpretazione più moderna cognitivista dei sogni va rispetto alle emozioni, ai temi, alle strategie di soluzione dei problemi che le persone utilizzano e alle motivazioni e alle metafore che sono presenti nel sogno. Ma un secondo, volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva il dottor Nobili. Non ci sono solo persone che guardano l'orologio quando si svegliano la notte, ma purtroppo vanno a guardare Facebook e questo gli moltiplica l'insonnia, perché vado a vedere quanti mi piace ho preso 3 volte durante la notte e a questo punto il sonno, arrivederci. Allora, noi ci diciamo arrivederci, ma ritorniamo subito dopo, esatto, le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, state già prenotando i vostri interventi e parleremo subito dopo con Marisa da Imperia e Monica da Milano. Anzi, Carmelo mi fa segno che posso sentire Marisa da Imperia, no, forse è sua cugina. Marisa, buongiorno, è cugina, buongiorno, di Carmelo Lauricella, perché mi puzza un po' questa gentilezza di Carmelo. No, sto scherzando, Marisa. No, allora niente, io ho 64 anni e volevo dire che io dormo pochissimo, mediamente 4 ore per notte, ma il mio sonno arriva presto, 9:30-10. Sì. Chiaramente dopo 4 ore più o meno, poi la mia giornata diventa molto lunga. E certo, ne ha da fare. E quindi immagino... Giovane, non lo pativo, adesso che sono un po' più avanzata nell'età, a fine giornata sono veramente stanca, anche perché non sono una che si mette in poltrona. Immagino. Allora Marisa, stia lì, noi facciamo un saltino a sentire le informazioni sul traffico, ritorniamo subito insieme col dottor Nobili e il professor Aquilar, pronti a darle una mano. A tra poco. Cuore e denari. I sogni sono desideri di felicità. I sogni sono desideri, eh? Il padre della psicoanalisi, il professor Freud, all'inizio del secolo scorso ha dato veste scientifica al Cenerentola pensiero, no, Deborah? Noi, esatto. Ecco, per quanto riguarda Cenerentola la felicità... Cenerentola pensiero mi è piaciuto. Siamo al 50° posto. Comunque, lui ha confermato come i sogni notturni siano proprio espressione dei nostri desideri. Ma davvero i sogni sono desideri? Qual è la loro funzione? Da dove arriva la materia dei nostri sogni? Ne parliamo tra poco col dottor Lino Nobile, il professor Aquilar, ma adesso noi dobbiamo realizzare un po' il sogno della nostra amica Marisa. Di parlare con noi. Perché, cari esperti, Marisa ha un sonno molto breve, 4 ore, ma andando a dormire alle 9, poi la giornata diventa molto lunga. Dottor Nobili. E qui sembrano mescolarsi due cose. Uno che è chiamato più disturbo del ritmo sonno-veglia, in questo caso un avanzamento di fase. Si va a dormire molto presto e ci si sveglia prima. Sicuramente se dorme solo 4 ore sono un po' poche, comunque sono veramente al di sotto delle medie di gran lunga. Quindi quello che potrebbe essere in queste, solo diciamo, ipotesi, certo, in questa fase particolarmente, se la signora è anche d'imperia, potrebbe essere molto utile sicuramente la stimolazione luminosa. Ora con la nuova stagione immagino che aumenterà, quindi la luce può aiutarla molto nel spostare il suo ritmo, prendere molta luce nel pomeriggio. Potrebbe permettere di arrivare ad andare a dormire a letto un pochino più tardi, in questo caso può essere utile anche prendere la melatonina e dovrebbe allungarsi già un pochino il sonno. Se questo non succede, bisogna capire se c'è una causa che provoca il risveglio, perché non mi pare di capire che ci sia un problema di addormentamento. Intanto, dottor Nobili, le leggo il messaggio di Fabrizio di Mestre, ce l'ha mandato via WhatsApp, che le farà sicuramente piacere, perché seguire la trasmissione ha cambiato la mia vita. Mi svegliavo più stanco di quando andavo a letto. Ho fatto gli esami per l'OSAS e ho scoperto che avevo più di 100 apnee per notte, alcune di oltre un minuto. Ora dormo con la CPAP e tutto un altro dormire, grazie Fabrizio di Mestre. Questo ha messo questo apparecchietto. Delle apnee notturne avevamo parlato diverse volte, torneremo a farlo, ma prima abbiamo Monica da Milano e poi vogliamo anche un po' sognare. Monica. Sì, buongiorno, vi ringrazio tanto per questa trasmissione che è sempre molto preziosa e voi siete molto preziosi, veramente. Grazie Monica. Io proprio stanotte, non ricordo mai i sogni, proprio stanotte invece ho ricordato il sogno di questo tir, che ho avuto un tamponamento con questo tir. Io sto vivendo un momento molto particolare, vorrei avere dei cambiamenti che non riesco ad avere. E probabilmente significa qualcosa questo tir che mi ha semi-investito. Dottor Aquilar, talvolta i sogni non li ricordiamo, ma quando si fissano nella nostra memoria cerchiamo di interpretarli. Certo, perché quando si fissano nella nostra memoria è probabilmente perché attivano emozioni più significative, perché il sogno poi è un insieme di variabili fisiche e psichiche. Se sono significative ce le ricordiamo e se ci sono poche cose significative ricordiamo solo quelle. E infatti la nostra amica Monica ha fatto l'interpretazione più saggia del suo sogno. Sta attraversando una fase della vita per cui si sente come tamponata da un tir. E allora sarebbe interessante, ovviamente se fossimo in seduta, andare ad approfondire che cos'è questa fase della vita, che cosa potrebbe essere il tir, ma soprattutto nel sogno quali strategie lei ha messo in atto per difendersi da questo tir, perché su quello possiamo poi far leva per utilizzare il sogno per migliorare la vita quotidiana, per fronteggiare meglio gli eventi che stiamo attraversando in quel periodo. Professor Aquilar, questi sono alcuni elementi che ci permettono un pochino, non so se uso il termine corretto, di interpretare i nostri sogni o di avere delle indicazioni, no? del momento, per capire il momento che stiamo affrontando. Ma spesso ci sono persone che non ricordano i loro sogni. Cosa può aiutarci a non dimenticarli? Ma se le persone non ricordano i loro sogni, può darsi che in quel momento non hanno delle particolari comunicazioni importanti da fare a se stessi e anche può darsi che non hanno nessuno a cui raccontarlo. In qualche modo sono state fatte più volte osservazioni su questo, che le persone in psicoterapia fanno dei sogni adeguati alla psicoterapia che stanno facendo, quindi chi sta in terapia freudiana fa sogni freudiani, chi sta in terapia junghiana fa sogni junghiani, chi sta in terapia cognitiva fa sogni cognitivo-comportamentali. Quindi in qualche modo i fattori sono due. Il primo, raccontiamo un po' di più di noi stessi a qualcuno che è per noi importante, e questo renderà più frequenti le comunicazioni della persona con se stesso che avvengono nel sogno. E il secondo, può darsi che in questo momento non ci sono delle questioni particolarmente importanti sulle quali il nostro inconscio ci deve dare una comunicazione emotiva significativa. Dottor Nobili, qual è la lettura del neurologo? Ma io intanto sono estremamente d'accordo in realtà con il psicologo, psicoterapeuta, insomma col dottor Aquila. Eravamo sicuri con Deborah che vi sareste piaciuti, vero? Sì, perché vero. Cerchiamo sempre di creare delle coppie, dei match ideali. Ma devo dire che io condivido molto questo tipo di approccio, perché comunque cervello e neuroni e psiche, emotività, insomma c'è sempre una copartecipazione di tutti e due i fenomeni, no? Quindi i sogni dipende un po' da che scuola si è, da che scuola si arriva, si possono interpretare in diversi modi. Io sono di solito molto pragmatico e cerco di applicare quello che funziona prima in breve tempo e posso vedere risultati migliori, e io condivido molto l'approccio del dottor Aquilar. Per quello che posso dire, tutti sogniamo. In realtà, ecco, anche questo, mettiamoci, ci dicono, sì, tranquilli. Anche quando ci dicono che non sogno, non sogno mai, in realtà sogniamo. Quindi possiamo non ricordarcelo, ma se noi svegliamo un soggetto quando è in quella fase ben precisa, è molto probabile che ci racconti un sogno. Magari poi se lo dimentica dopo pochi minuti, ma nel momento immediato, dopo il risveglio, può ricordarci che stava sognando qualche cosa. C'è chi dice che in realtà poi il sogno venga composto in quei pochi attimi in cui ci si sveglia, ma in realtà poi comunque fa sempre parte di quell'attività mentale legata a quella fase. Ecco. Dottor Nobili, un messaggio che racconta un'abitudine abbastanza frequente. Spesso la cattiva abitudine di accompagnare l'addormentamento con un video di un cellulare o di un PC, però con la conseguenza di svegliarmi spesso la notte male. Quando tengo questi apparecchi spenti e lontani dal letto, magari faccio più fatica ad addormentarmi, però dormo meno, dormo e mi sveglio meglio. Questo ci scrive Tonio su WhatsApp. Questo è un tipico esempio di condizionamento, se vogliamo, negativo, in effetti negativi, nel senso che si diventa dipendenti di un processo, che questo processo però in realtà è legato a stimolazione luminosa e ad altre cose di cui non sappiamo bene ancora gli effetti, onde elettromagnetiche, sì, ma che in qualche modo potrebbero disturbare il nostro sonno. E di questo e di tutte le cause che disturbano il nostro sonno parleremo dopo il GR e anche dei vostri sogni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Il sogno è il teatro dove il sognatore è, allo stesso tempo, la scena, l'attore, il suggeritore, il direttore di scena, il manager, l'autore, il pubblico e il critico. Jung. Siamo tornati insieme, allora oggi puntiamo a realizzare il sogno di 12 milioni di italiani, dormire bene ed è fare dei sogni d'oro. Per questo ci affidiamo a un neurologo, il dottor Lino Nobili, e a uno psicoterapeuta cognitivo, il professor Francesco Aquilar. Io adesso me ne sto zitta perché ci sono tantissimi ascoltatori che chiedono di parlare con voi. Voglio solo fare un domandone, dottor Nobili, che sono andata a prendere dal suo libro 100 risposte sul sonno, che voglio suggerire anche ai nostri ascoltatori per togliersi tutte le curiosità sul sonno e imparare tante cose. Allora, volevo chiedervi, qual è la temperatura della vostra camera da letto? È vero che sono fatti vostri, così come con chi dormite, come dormite, in pigiama, nudi, mutande o con 5 gocce di Chanel? Ma la domanda non ve l'ho posta a caso, perché c'è una temperatura ideale che garantisce sonno e sogni tranquilli. La conoscete perché il dottor Nobili ne parla anche nel suo libro e quindi sarà lui a valutare le sue risposte, le vostre risposte, che vi permetteranno di ricevere a casa naturalmente un libro. Intanto andiamo a Elisabetta che ci chiama da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei sogna? Mi parla di sogno o di sonno? Di sogni. Di sogni che sono anche... Io lo vivo come un incubo perché è ricorrente. È ricorrente. E cosa ricorrente nel senso non settimanale. Però ogni tanto mi faccio questo sogno. Insomma. E mi trovo, nonostante sia laureata, devo sostenere l'esame di maturità magistrale e io non so niente. Cioè, non e viene quello che si dice il groppo in gola. Professor Aquilar, è terribile, è una bella sudata. Professor Aquilar, questo tra i sogni ricorrenti direi che è un classico. È un classico ed è un incoraggiamento sostanzialmente del nostro inconscio alla nostra coscienza. Cioè il significato tradizionale è proprio che come la persona ha superato l'esame di maturità magistrale tanti anni fa, malgrado la sua paura, così supererà anche l'evento preoccupante che c'è in agguato in questo momento. Il punto è un altro: se Elisabetta però lo fa in maniera ricorrente, probabilmente dovremmo domandarci come mai tutti i fattori preoccupanti che lei deve affrontare suscitano una paura così eccessiva, e quindi si tratterebbe di andare a ragionare insieme ad Elisabetta sul significato della paura nella sua vita, perché potrebbe essere un'emozione che è sproporzionatamente elevata rispetto a quello che accade. Ecco perché il sogno non solo è una comunicazione del sognatore a se stesso, ma anche a quello a cui il sognatore lo racconta, noi ascoltatori di Radio 24 in questo momento, ma è anche l'occasione attraverso la quale il nostro inconscio ci suggerisce una strada per migliorare il nostro rapporto, in questo caso con l'emozione di paura. Allora, voglio leggervi il sogno di Anthony, che ci scrive che gli era in sogno, gli era cresciuto un occhio fra le sopracciglia, ha dovuto alzarsi e andare a specchiarsi per convincersi che che fosse solo un sogno. Professor Aquilar, qua siamo a un problema serio? E bisognerebbe saperne di più. Perché questa persona ha bisogno del terzo occhio? E a che cosa gli serve? C'è qualcosa davanti a lui che lui si rifiuta di vedere nella sua vita, per cui è un terzo occhio che gli servirebbe per vedere questa cosa che lui stesso si rifiuta di vedere? E naturalmente questo ascoltatore Anthony ci dà l'occasione di vedere quando ci sono dei sogni particolarmente vividi, talmente vividi che il confine tra veglia e sonno e sogno viene fortemente messo a repentaglio. Quindi la domanda è: che cosa c'è nella tua vita che non vuoi vedere? Bella domandona. 800 24 00 24, ricordate anche la temperatura ideale, non bisogna andare sotto, non bisogna andare sopra. A proposito di sogni, potreste realizzare un sogno, lo sappiamo bene, Deborah, vero? Che c'è fermento qua a Radio 24. Ah sì, è vero, proprio al piano di sotto, in reception, esatto. Oggi e domani, dalle 10 alle 18, potresti avere un'occasione unica partecipando alle selezioni di RDS Academy Live coi giudici del programma da questa location esclusiva che è Radio 24 sulle 24 ore. Oggi come giudice ci sarà Matteo Maffucci, mentre domani ve la giocherete con il grande Cruciani, quindi come realizzate un sogno. È vero, allora, è per molti. Marisa, buongiorno da Brescia. A lei, buongiorno a tutti. Il sonno ovviamente mio è migliorato con la melatonina, ma credo che questo accada e sia comune a tutti. Ma non è detto. Utilizzare alcune cose naturali. Però volevo parlarvi solo di un sogno ricorrente, sì, che ricordo spesso, diciamo dall'età dell'adolescenza, nel senso che si ripete, credo, ogni anno, ogni due anni, ma è una cosa ormai stabile. Un bosco non scuro, non una situazione di disagio, però un fuoco che arde e che brucia tutto quanto, e un alce o comunque una cosa con delle corna grandissime che mi raccoglie da questo bosco e mi porta lontano dal fuoco. E questo credo si ripete ormai da 20 anni, 25, e quasi ogni anno o ogni due anni io lo faccio. Viene a trovarla, appare. L'alce viene a trovarla, sì, in sogno. Sì, beh, esatto. Si potrebbe di sperare in qualcosa di più. Babbo Natale con i regali. Beh, Babbo Natale. Le renne, io pensavo ad altro, però va bene. Però non voglio scoprirmi, perché sennò il professor Aquilar poi mi legge troppo. Professor Aquilar, questo alce. Beh, bellissimo. Probabilmente è in qualche modo il riverbero di una prima esperienza. Cioè, come a dire che questa ascoltatrice Marisa, probabilmente quando è cominciato il primo dei sogni ricorrenti, si trovava in una situazione difficile in cui tutto intorno, inaspettatamente, perché non era preparata, da un bosco buio, tutto intorno bruciava e c'era stato qualcuno che in qualche modo era intervenuto a salvarla. La replica del sogno è probabilmente la speranza che tutte le volte che c'è una difficoltà, come nel primo sogno, venga un alce a salvarla. Ovviamente se fossimo in uno studio di psicoterapia andremo a cercare chi è l'alce nella tua vita. Io preferirei un principe azzurro, ma poi i principi azzurri abbiamo capito che non esistono, neanche in sogno. Allora, un pilota di aerei, come la vedi? Perché c'è un ascoltatore che scrive: ho sognato Nicoletta che con me pilotava un aereo. Ma dove stavate andando? Sono cose troppo private. Dottor Nobili, ultimi minuti per tornare a parlare della qualità del sonno. Le regole dell'igiene del sonno le sappiamo, ma avvertenze e raccomandazioni? Poche raccomandazioni fondamentali, direi. Andare a dormire quando si ha sonno, soltanto quando si ha sonno. Questa è la cosa principale. Non dormire prima di andare a dormire, ad esempio, davanti alla televisione, l'abbiamo detto più volte. E poi evitare le stimolazioni eccessive prima di andare a dormire, di tutti i generi, da quelle luminose, da quelle legate all'attività fisica, allo studio. Crearsi un rituale che accompagna proprio la fase di transizione veglia-sonno. Dottor Nobili, abbiamo accennato, perché abbiamo dedicato delle intere puntate, quindi potete andare naturalmente nel nostro archivio a recuperarle, puntate intere, alle apnee. Allora, quali sono i segnali che devono insospettire il partner? Perché di solito chi ha le apnee non se ne accorge, quindi russa, ma, dottor Nobili? Allora, i sintomi più frequenti sono la sonnolenza durante il giorno, persona che ha dormito comunque 7-8 ore durante il giorno ha sonno, alzarsi più volte per far pipì in presenza di russamento può essere un segno indiretto della presenza di apnee. Non quindi, è sempre solo la prostata per gli uomini? Assolutamente perché... no, anche le apnee notturne proprio creano un aumentato diuresi durante la notte e molti pazienti purtroppo hanno fatto già diverse visite per vedere se c'è qualche problema alla prostata prima di arrivare all'ambulatorio di medicina del sonno per ricevere la diagnosi. Invece avrebbero potuto risparmiare tanto tempo e risolvere, perché erano dei russatori non solo, ma avevano le apnee, quindi trattenevano anche sì. Si trattiene il respiro durante l'apnea, una condizione che mette a rischio la nostra salute, dottor Nobili? Beh, sì, durante l'apnea si ha un blocco del passaggio dell'aria attraverso le vie aeree superiori. Il russamento è l'avvicinamento delle pareti che vibrano e creano il suono, come se fosse un'ancia di uno strumento musicale, un baritono. Dopodiché queste pareti delle vie aeree possono toccarsi e chiudersi, il soggetto non se ne accorge, ma per riaprirle deve svegliarsi anche in maniera poi che non percepisce, quindi lui non sa di aver fatto un'apnea. Questa cosa può succedere anche 60 volte in un'ora. Abbiamo sentito prima quel signore che adesso in CPAP che faceva 100 apnee all'ora, più di una al minuto, quindi quasi due. Dottor Nobili, allora, la temperatura non è stata individuata da nessun ascoltatore di Radio 24, segno che il domandone era abbastanza difficile, ma c'è una temperatura ideale, non bisogna superarla, non bisogna scendere. Qual è? Beh, si dice intorno ai 18 gradi, questa è la temperatura. Ne è arrivato ideale. Uno proprio adesso di ascoltatore, guarda Nicoletta, dai, però allora... siccome arriva proprio ecco sul filo, dai, di lana, certo, lo premiamo lo stesso, prendiamo. Non si ferma, è un sms, non potremmo accettarlo ma per via facciamo. Del nostro rigidissimo regolamento, ma lo accettiamo, perché aggiunge: mi capita di ridere a crepapelle svegliandomi da una specie di cartoon di cui sono uno dei protagonisti, ma poi la temperatura e è 18 deve gradi. Deve essere molto simpatico. Allora, sul libro del dottor Nobili leggo: una temperatura inferiore può causare difficoltà d'addormentamento e sogni sgradevoli, mentre una temperatura superiore ai 24 gradi può causare un sonno disturbato da ripetuti movimenti del corpo. Quindi la temperatura ideale è 18, risparmiamo anche e ci guadagna anche l'ambiente. Dottor Nobili, professor Aquilar, una straordinaria coppia che torneremo ad invitare insieme. Grazie e buona giornata del sonno. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Cambiamo tema? Volentieri. Cambiamo Vediamo tema. Se possiamo dormire dei sonni tranquilli. Allora, posso dirti già di sì, perché? Ah, ecco. Le turbulenze dei mercati finanziari, con i quali abbiamo veramente ossessionato anche un po' i nostri ascoltatori dall'inizio dell'anno, sicuramente non hanno fatto dormire sonni tranquilli a qualcuno, ma sono turbulenze che in qualche maniera hanno risparmiato, per fortuna, il mondo dei fondi pensione. Vi do questa cifra: meno 0,9% è La perdita media di gennaio dei 106 comparti dei fondi pensione negoziali, quindi fondi pensione chiusi, fondi di categoria che sono stati censiti dall'organizzazione Itinerari Previdenziali. È una cifra che ci dà la misura di come appunto il settore abbia messo a segno quello che è il suo obiettivo principale, cioè la protezione del denaro che viene versato dai lavoratori. Allora, da questa considerazione partiamo per affrontare il tema di questa mattina. Ritorniamo sul mondo dei fondi pensione che abbiamo un po' trascurato recentemente, eppure è un tema molto importante per molti lavoratori che stanno versando in questo momento, per tutti quelli che fanno fatica a mantenere il trend dei versamenti perché magari lavorano per un'azienda in crisi. È un tema molto importante anche magari per la platea dei più giovani lavoratori che stanno interrogandosi adesso se è il caso o no di partire con un piano di previdenza complementare, e questo è il tema della nostra scuola di risparmio di oggi. Investire informati. L'investimento appunto di cui parliamo oggi è a fini pensionistici, per cui l'approccio che dobbiamo tenere è evidentemente differente rispetto a quello che abbiamo nei confronti delle soluzioni di risparmio tradizionali, per cui stamattina abbiamo deciso di ripercorrere insieme, oltre alle notizie di cronaca, anche l'ABC del fondo pensione. Quali sono le differenze principali fra i vari strumenti? Le novità fiscali che sono arrivate negli ultimi mesi, delle quali abbiamo tanto parlato soprattutto un anno fa e che sono state considerate anche penalizzanti per l'industria. Intanto il numero verde a vostra disposizione è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Intervenite numerosi. Se in questo momento state facendo delle sane considerazioni sul tema della previdenza complementare, noi le condivideremo con le nostre ospiti di questa mattina. Il fondo pensione è maschio, ma abbiamo tutte donne oggi, per fortuna. Nadia Vavassori, responsabile di Seconda Pensione Amundi SGR, che è appunto un fondo pensione aperto. Poi spiegheremo, per chi non lo sapesse, che caratteristiche ha un fondo di questo tipo. Ben ritrovata, grazie. Grazie a voi e buongiorno a tutti. È una consulente alla quale chiedo spesso aiuto per gli amici che ci scrivono in privato quando noi apriamo il nostro ambulatorio Nicoletta del pomeriggio. E proprio di recente, peraltro, mi sono ripresa le considerazioni che la dottoressa Vavassori ha inviato ad un'ascoltatrice che ci chiedeva proprio: io sono una casa linga, quindi mi occupo della famiglia, non ho denaro personale da destinare ad una forma di previdenza complementare, mi aiuterà mio papà, ci aveva raccontato, però brancolo nel buio, non so da dove partire, quindi ho chiesto alla dottoressa Vavassori se ci aiutava almeno ad avere i quattro punti di partenza principali, le prime considerazioni da fare quando si deve scegliere un fondo appunto integrativo. E poi abbiamo con noi Anna Maria Trovò, presidente del Fondo Cometa. Presidente, buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Fondo Cometa, gli ascoltatori lo sanno, per chi non lo sapesse, è il più grande e il più importante fondo pensionistico operante in Italia, quello dei metalmeccanici, dell'industria metalmeccanica, e ha circa 400.000 iscritti, presidente Trovò? Un po' più di 400.000 iscritti. Ho visto l'ultima statistica sul vostro sito, quindi avete superato anche questa importante soglia. Ribadisco ancora per i nostri ascoltatori 800 24 00 24 per tutte le vostre domande. Fondo pensione sì, no? Che tipo di scelta avete fatto? Come vi siete orientati? Avete guardato anche al tema del rendimento? Perché noi da questo vogliamo partire stamattina. Negli ultimi due mesi i fondi pensione sono stati in grado di limitare le perdite rispetto a quelle che hanno messo a segno, per esempio, i fondi di investimento tradizionali. E anche nel medio periodo hanno mantenuto un profilo molto competitivo. Ho trovato un'altra statistica, questi dati sono pubblicati sul sito della Covip, che è l'organizzazione di vigilanza del mondo dei fondi pensione, e appunto abbiamo appreso che negli ultimi 5 anni, dal 31 gennaio 2011 al 29 gennaio scorso, l'indice generale dei fondi comuni è salito di circa il 14%, i fondi pensione negoziali hanno avuto un rialzo medio di circa il 27%. Gli aperti invece, Nadia Vavassori, come sono andati? Abbiamo qualche cifra? Sì, sono andati bene. Assolutamente sono andati bene. Certo, c'è la distinzione da fare tra comparti che hanno contenuti maggiormente obbligazionari e quindi comparti tra virgolette più sicuri e comparti più esposti invece ai mercati azionari. Però l'andamento è stato, almeno per la parte azionaria, superiore al 27% in 5 anni come rendimento composto, e per gli obbligazionari ci attestiamo intorno a un 17%. Per quello che riguarda la vostra esperienza, in genere i lavoratori che aderiscono al vostro fondo di previdenza complementare che orientamento hanno in termini di comparto? Che cosa hanno scelto? Da tre anni a questa parte il posizionamento è in realtà nella strada di mezzo, nel senso di cercare di cogliere le opportunità date sia dai mercati obbligazionari che azionari senza esporsi eccessivamente. Allora, abbiamo anche delle statistiche che si riferiscono a periodi più lunghi. In genere, dottoressa Trovò, il confronto che viene fatto è quello con il TFR, col trattamento di fine rapporto, no? In termini di rendimento. Anche in questo caso mi pare che la battaglia venga vinta dai fondi pensione. Sì, il trattamento di fine rapporto è un punto di riferimento, anche se è un punto di riferimento non propriamente finanziario, ma poiché il lavoratore mette a disposizione del risparmio previdenziale il suo trattamento di fine rapporto, oltre a contribuzione dell'azienda e contribuzione propria, il fatto che il TFR rimasto in azienda abbia una rivalutazione derivante dalla legge, questo determina il fatto che il confronto sia costante. Le statistiche di questi anni ci dicono che i fondi pensione hanno ampiamente battuto il trattamento di fine rapporto in tutte le tipologie di gestione. Noi abbiamo tipologie differenziate che vanno dalla gestione totalmente monetaria a quella bilanciata, prudente, a quella più dinamica con maggiore componente azionaria. Bene, in tutti i casi siamo stati al di sopra del trattamento di fine rapporto, ma parlo di numeri importanti. Prendo il comparto intermedio, il bilanciato prudente: dall'avvio della gestione multicomparto ad oggi, e cioè dall'aprile 2005 al dicembre 2014, prendiamo questo dato di riferimento, il TFR ha reso al lavoratore il 28,13%, il fondo ha reso il 49,85%. Quindi parliamo di differenze di non poco conto. Eh certo, e ricordiamo che questi rendimenti sono stati resi possibili non dal fatto che chi gestisce il fondo pensione per i lavoratori abbia così un atteggiamento scaltro, dinamico e aggressivo sui mercati, ma in realtà al contrario lo mantiene quanto più prudenziale possibile, proprio perché, dottoressa Trovò, questo lo chiede esplicitamente la legge. Sì, la legge ci chiede di essere prudenti. I vari fondi hanno interpretato con modalità differenti questo mandato preciso che il legislatore ci dà. Noi come Cometa ci ricordiamo sempre che abbiamo nelle nostre mani la gestione di un risparmio finalizzato all'erogazione della previdenza di secondo pilastro, ma pur sempre previdenza. E quindi le gestioni devono ricercare il miglior rendimento, ma bilanciandolo con la riduzione massima del rischio. Questo nel confronto in determinati periodi dove i mercati sono andati molto molto bene nel mondo della finanza non paga, ma nel lungo periodo, che è quello che dobbiamo tenere a riferimento per l'accantonamento previdenziale, certamente paga. Lei introducendo diceva i fondi pensione hanno tenuto bene anche nel contesto di criticità forte dei mercati finanziari. Beh, questa è la dimostrazione del fatto che un atteggiamento prudente è quello che ci consente di garantire tempo per tempo un accantonamento e la restituzione del patrimonio rivalutato al lavoratore, proprio come la legge ci chiede di fare. Infatti, allora, paradossalmente i fondi pensione hanno retto rispetto alla turbolenza di mercato, reggono un po' meno rispetto alla turbolenza dell'economia reale, perché qua, e lo stiamo testando proprio dalle considerazioni che arrivano dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo, si stanno già mettendo anche in prenotazione appunto per intervenire in diretta, il tema è chi versa, chi lo fa con convinzione, ma magari si trova in un momento della propria vita professionale difficile, perde il lavoro o magari ancora peggio scopriamo di molte persone che ci scrivono appunto che lavorano ancora regolarmente ma hanno scoperto che l'azienda in questo momento fa fatica a mantenere il trend dei versamenti verso le forme di previdenza complementare. Come difendersi da tutto questo? Che cosa fare? Vorrei sentire, prima di andare ai mercati, anche se è un po' tardi, Vittorio da Padova, perché appunto sintetizza un po' questa situazione che, Vittorio, le assicuro, ci stanno raccontando in molti. Benvenuto. Buongiorno a voi e grazie della vostra trasmissione. Sì. Molto perfetta, insomma. Grazie, molto perfetta addirittura, esatto. Esageriamo. Delle fate. Esatto. Andiamo, Vittorio, ci dica. È il mio caso, ho scoperto praticamente proprio qualche mese fa mi hanno comunicato l'azienda che gestisce il mio fondo pensione che il datore di lavoro ha fatto soltanto 3 versamenti dal 2014 e poi basta. Adesso cosa deve aspettare della situazione? In che settore lavora Vittorio? Lei ha aderito a un fondo chiuso oppure ha fatto una forma sua personale, individuale, un fondo aperto, un piano individuale? Penso un fondo chiuso, con l'alleanza assicurazioni. Allora, allora è aperto. Se alleanza è un piano individuale. È totale, comunque. Allora, l'ho versato lì completamente. Ma lei ha fatto questo contratto con un agente di assicurazione, con un consulente finanziario con il quale si è confrontato o ha fatto tramite l'azienda? No, tramite l'agente praticamente. Ah, ecco, quindi non è un fondo chiuso, ma è un piano pensionistico individuale. PIP o FIP si chiamano. Grazie Vittorio, però il tema è, in questo caso appunto c'era addirittura anche il versamento del datore di lavoro, quindi evidentemente Nadia Vavassori ci aiuti subito. Anche per una forma privata pensionistica ci sono delle circostanze in cui il datore di lavoro che tradizionalmente versa il suo contributo al fondo chiuso può farlo anche nei confronti degli altri. Questo può farlo a prescindere, nel senso che le adesioni collettive sono contrattualizzate dai contratti collettivi di lavoro di primo livello nei fondi pensione negoziali, nei fondi pensione aperti, però possono essere contrattualizzate invece al secondo livello, quindi con dei contratti integrativi aziendali, quelli che normalmente istituiscono i benefit o comunque delle migliorie rispetto al contratto collettivo di livello nazionale. Detto questo, allora non c'è molta chiarezza sul fatto che i fondi pensione, sia che siano negoziali sia che siano aperti, possano avere un ruolo attivo in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro. In questo caso, nel caso specifico dell'ascoltatore, bisognerebbe conoscere un po' di più, cioè non ha versato il TFR, che chiaramente è il lavoratore che decide su quale forma di previdenza complementare debba andare, certo. O non ha versato il contributo a proprio carico. Perché nel caso del TFR esiste tutta una prassi consolidata, perché ahimè la situazione dei fallimenti negli ultimi anni è stata piuttosto diffusa, tale per cui è possibile ricorrere comunque al recupero delle quote di TFR non versate, sia insinuandosi al passivo che facendo riferimento al fondo di garanzia del TFR. Okay. Per quanto riguarda invece la quota eventualmente definita a livello di contrattazione aziendale con il datore di lavoro, ecco, in questo caso si diventa dei creditori privilegiati, ma di fatto bisogna insinuarsi direttamente, certo, nel passivo del fallimento. Bisognerebbe anche capire se si intende continuare ad accettare una situazione di questo tipo e magari fare una scelta diversa e riorganizzare un proprio rapporto anche con il datore di lavoro, se è consentito farlo da questo punto, visto che Vittoria ha scoperto che l'azienda non è in grado di fare questi versamenti, interromperli e eventualmente farsi carico in via individuale di tutto. Ma di fatto l'azienda li ha già interrotti, no? Forza, allora ci riflettiamo meglio adesso dopo la borsa. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Ci sentiamo proprio fra un minutino, a tra pochissimo. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Insomma, invece il momento del primo assegno pensionistico si allunga sempre di più per effetto delle riforme degli ultimi anni. E poi ci sono tanti altri problemi, giovani che naturalmente entrano nel mercato del lavoro sempre più tardi, insomma un dibattito molto ampio e molto delicato che questa mattina non affrontiamo, ne affrontiamo solo una minima parte, quella che si riferisce alla costruzione della nostra pensione di scorta. È necessario naturalmente farlo, perché i nostri assegni pubblici saranno sempre più magri, per cui bisogna metterci anche una pezza d'appoggio. Dobbiamo fare noi, attraverso, se vogliamo, naturalmente niente è obbligatorio ma tutto è opportuno, naturalmente l'idea è quella di sottoscrivere un fondo di previdenza complementare. Abbiamo avuto un grande dibattito su questo argomento qualche anno fa, quando fu varata la riforma del TFR del ministro Maroni, che per 6 mesi diede l'opportunità a milioni di lavoratori di destinare il TFR maturando nei fondi pensione con quel famoso meccanismo del silenzio assenso. In 6 mesi abbiamo fatto, credo, 2 puntate a settimana per far capire bene che cosa stesse cambiando. Da lì in avanti poi il dibattito si è un po' più stemperato. Ogni tanto ci ritroviamo a parlare di questo argomento, lo facciamo oggi in questa circostanza perché abbiamo così ritenuto opportuno dare un'occhiata all'andamento dei fondi pensione alla luce di quello che è successo sui mercati dall'inizio dell'anno, e abbiamo scoperto che tutto sommato in termini di rendimento i fondi vanno bene, hanno svolto la loro funzione protettiva del denaro dei lavoratori. Il problema che stiamo scoprendo, e anzi enfatizzando, lo sapevamo bene come stavano andando le cose, è che ci sono molte aziende in difficoltà che purtroppo non fanno il loro dovere di fare il versamento del loro contributo appunto ai fondi pensione, e anche il TFR maturando che i lavoratori hanno scelto di versare ai fondi pensione, in realtà le aziende se lo trattengono e non versano neanche questa parte, con forte disappunto dei lavoratori che a questo punto si chiedono che cosa posso fare. Allora 800 24 00 24, Vittorio da Padova ci ha rappresentato quello che succede nella sua azienda. Dottoressa Trovò, presidente di Cometa, il fondo dell'industria metalmeccanica, voleva aggiungere qualcos'altro rispetto a quella situazione, perché immagino che anche nel vostro settore di situazioni di questo tipo ce ne siano molte, anzi lei ha una fotografia da scattarci? Esatto, il tema del rischio omissione contributiva è un tema delicato, perché al lavoratore si dà fiducia dimostrando una buona performance finanziaria e si dà risposta anche contenendo i costi di gestione, ma anche rassicurandolo rispetto ai rischi di perdita del proprio patrimonio. Allora, qualora l'azienda non versi i contributi, intanto il lavoratore ha modo di accorgersene perché periodicamente è informato, ecco, sulla propria posizione previdenziale. Poi, qualora l'azienda permanga nella propria situazione di contribuente insolvente, nel caso in cui ricorra il fallimento o una procedura concorsuale o comunque situazioni che la legge ha ben enucleato, è possibile ricorrere non solo per la parte TFR, ma per la totalità della contribuzione emessa, omessa, al fondo di garanzia. Quindi abbiamo una protezione totale del lavoratore in questi casi, che sono effettivamente molto pericolosi e anche purtroppo un po' diffusi. Qualora invece l'azienda abbia una temporanea difficoltà, ha modo di rientrare. In questo caso i fondi chiedono alle aziende, da regole interne, il versamento di una penale che è rappresentata dalla mancata rivalutazione, oltre che da una sanzione per il ritardato versamento. Dottoressa Trovò, in che tempi il fondo di garanzia INPS, tra virgolette, risarcisce il lavoratore dei mancati versamenti? Parliamo di intervento in base a procedure concorsuali, quindi i tempi sono quelli in cui classicamente i fondi di garanzia, anche quello TFR, intervengono a risarcire i lavoratori. Oggettivamente sono tempi lunghi, però il lavoratore è protetto, cioè se la paura è io credo di aver fatto un investimento, l'azienda fallisce, la mia pensione non c'è più, questa paura non ci deve essere. Si tratta di un'opzione parzialmente soddisfacente, ma un'opzione protettiva. Il fatto che le aziende poi capitino non versare il contributo del lavoratore e nonostante ciò lo trattengano al lavoratore si configura come appropriazione indebita. Quindi qui siamo ancora in un altro scenario di contenzioso legale che può essere promosso dal lavoratore. Vi leggo intanto una notizia fresca fresca arrivata proprio in questi minuti. Sta parlando il presidente dell'INPS, Tito Boeri. Finalmente le buste arancioni arriveranno a casa degli italiani, le lettere con la previsione della pensione futura verranno inviate a 7 milioni di lavoratori quest'anno. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con l'AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale, e Boeri ha spiegato che questo meccanismo permetterà di raggiungere chi non è digitalizzato, inviando queste stesse persone a munirsi di SPID, che è il nuovo PIN unico per accedere ai servizi online. Ma adesso, a prescindere dalla procedura, Vavassori, quante volte abbiamo parlato insieme di busta arancione da questi microfoni? Parecchie volte. Prima erano un sogno, poi in parte si sono concretizzate. Perché l'anno scorso molti hanno avuto la loro simulazione. Tutti gli under 40, diciamo, buona parte di loro hanno ricevuto la busta arancione. Adesso all'inizio dell'anno era stato annunciato l'invio della busta arancione per i dipendenti della pubblica amministrazione. A questo punto questo annuncio immagino faccia si sommi a questo dei dipendenti privati. La busta arancione è sicuramente un importante strumento per arricchire la conoscenza, la comprensione della tematica previdenziale, di cui non si parla mai abbastanza, mostra dei numeri e quindi spinge il soggetto comunque, esatto, ad interessarsi, perché c'è questo lato emozionale di cui abbiamo parlato, per cui la pensione tendenzialmente è collegata alla vecchiaia e di conseguenza uno cerca sempre di spostare il pensiero, insomma, non credendosi sempre giovane. Però in realtà è un tema che diventa anche sempre più importante, considerato la longevità e l'allungamento della vita. Quindi insomma saranno anni in cui avremo bisogno di un reddito o di più redditi, per cui la presa di consapevolezza, esatto, una fotografia livello, per quanto potrà essere sgradevole e spiacevole sulla nostra situazione, sarà invece in realtà l'occasione per avere una netta presa di coscienza sulla nostra situazione individuale, su cui poi agire. Certo, agiamo adesso con il traffico, perché è tempo, tra poco. Prima del traffico, come senti, in regia mi invitano a fare il domandone, ma sì, facciamo divertire anche oggi i nostri ascoltatori, che se vogliono guadagnarsi il libro di denari devono rispondere a questa domanda. Allora, noi stamattina stiamo focalizzando la nostra attenzione su due particolari forme di previdenza complementare: fondi chiusi e fondi aperti, ma l'abbiamo anche detta qual è la terza forma. Allora, se l'avete raccolta, se l'avete colta, oppure se la conoscete già, raccontateci, diteci qual è all'800 24 00 24, e naturalmente siamo pronti ad aprire la nostra libreria per voi. Cuore e denari. Le principali forme di previdenza complementare sono tre. Noi stamattina stiamo facendo un piccolo focus su fondi chiusi e fondi aperti. Qual è la terza forma? 800 24 00 24. Se volete un libro della biblioteca di Cuore e Denari, naturalmente vi potrete guadagnare questo diritto rispondendo al nostro domandone, ma potete continuare anche ad andare avanti con le vostre domande sul tema della previdenza complementare. Pronto, Marcello da Torino, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Io ho una domanda che è un po' che ci sto pensando. Io un po' di anni fa, nel 2007, ho fatto un sistema che si chiamava Unipension con l'Unicredit. Questo non mi ha reso molto, nel senso che io ho visto che dopo 7-8 anni che versavo dei soldi, praticamente erano rimasti gli stessi. E quindi il dubbio mi veniva, dice, ma se è una pensione, se non cresce qualche cosa, magari ha scelto una linea molto molto molto prudente. Sa quello che è successo dal 2007 ad oggi sui mercati, Marcello? Già il fatto abbiano ben conservato il capitale mi... però certo, rispetto a quel 40% che ha sentito negli altri, certo. Il problema è quello che mi chiedevo, visto che c'erano altri fondi che in realtà invece avevano dei rendimenti ben diversi. Ma lei è andato un po' a chiedere anche col consulente con il quale ha sottoscritto questa forma di previdenza, insomma, ma che cosa è successo? Ma io devo dirle sinceramente, della banca non mi fido più, nel senso che al momento che volevo, che mi hanno proposto di stipulare, insomma, questo fondo pensionistico, io ero un po' dubbioso. E la persona, ma no, conviene, ma no, conviene. Poi in realtà si è capito che neanche questa persona capiva bene che cosa mi stava dando. Allora, quindi... Marcello, va bene, abbiamo capito, però anche rispetto all'ascoltatore che ci ha chiamato prima, mi raccomando, sforziamoci un po' di più quando facciamo queste scelte che sono fondamentali per il nostro futuro, di fare tre domande in più rispetto all'andare via con un contratto firmato di una cosa di cui abbiamo capito la metà. Per cui prendiamoci una settimana in più prima di sottoscrivere un contratto, se tanti termini non abbiamo capito, se quello che ci aspetta non l'abbiamo capito. Poi, per carità, da che pulpito... È facile, no, parlare dalla radio, poi ogni lavoratore ha le sue difficoltà. Detto questo, dottoressa Trovò, vengo da lei, le faccio fare in realtà un commento poi sull'industria bancaria, ma non su, in realtà sull'atteggiamento del nostro ascoltatore più che altro. Prima cosa, resa non soddisfacente. Lui dice, io guardo, faccio un bilancio dal 2007, 9 anni di versamenti, non sono proprio contento di come stanno andando le cose. Cambiare è possibile, naturalmente. La portabilità quando è possibile del fondo pensione? La portabilità stabilità è possibile verso i fondi negoziali e anche dai fondi negoziali verso altre iniziative con le norme attualmente vigenti dopo 2 anni dall'adesione iniziale. Quindi l'ascoltatore ha sicuramente la condizione di spostarsi. Poi io faccio un invito di tipo generale alla informazione, cioè noi abbiamo bisogno non solo di ricevere la busta arancione e di sapere qual è la prospettiva pensionistica, ma anche di alfabetizzazione finanziaria. Le vicende del sistema bancario degli ultimi mesi ce lo hanno detto a gran voce, la telefonata dell'ascoltatore ce lo ribadiva. Insomma, le persone hanno la necessità di capire. Io mi rendo conto che anche quando andiamo a proporre ai nostri iscritti 5 diverse tipologie di gestione finanziaria, che vanno dalla gestione meramente monetaria a quella dinamica un po' più aggressiva perché con una componente azionaria più elevata, chiediamo di fare una scelta che presuppone una capacità di comprensione, di consapevolezza, e chiediamo loro una cosa complicata. Per questo io ritengo che sia molto importante potersi affidare nel momento in cui si sceglie di aderire a un fondo a una gestione che sia professionale, competente. Io dico, per quanto riguarda i negoziali, una gestione che non ha fini di lucro. I negoziali nascono esclusivamente per rispondere al bisogno previdenziale dei lavoratori e delle imprese socie per i loro lavoratori. Non hanno la necessità di pagare dividendi, di pagare compensi particolari, se non quelli strettamente legati alla gestione. E mi pare che questo sia un dato importante, se no non avremmo potuto garantire i risultati che abbiamo garantito. Devo far intervenire l'industria certo. finanziaria. Nadia Vavassori, allora, però anche voi gestite i fondi pensione con un criterio, adesso non dico senza l'obiettivo del profitto, però insomma avete ben chiara la legge, quello che chiede, anche i fondi aperti, insomma, si sono costituiti secondo queste finalità molto nette e molto chiare. Prima naturalmente le faccio rispondere su questo aspetto, poi se vuole anche commentare l'ascoltatore il caso di Marcello, che insomma è un po' disorientato in questo momento. Ma allora, riguardo alle affermazioni della presidentessa, che peraltro cioè, mi trovano d'accordo, preciso però una cosa. L'industria si è organizzata, i gestori dei fondi pensione negoziali sono anche in buona parte i promotori, gli istitutori di forme pensionistiche, diciamo di natura privata. Alcune possono avere fini di lucro, diciamo che in teoria io non so, diffido personalmente di tutto ciò che è gratis se voglio un buon servizio, perché il buon servizio va pagato entro dei parametri chiaramente accettabili e oggettivi. E qui, per venire in aiuto invece dell'ascoltatore che è intervenuto, dico anche questo: la forma pensionistica specifica che ha citato ha sicuramente reso poco, perché un elemento base di cui si deve tener conto è sicuramente nel momento in cui viene fatta un'offerta, di guardare i rendimenti e la capacità di generare rendimento del soggetto che te lo propone. E per fare questo, sul sito della COVIP, che è stata prima citata, sono pubbliche le tabelle di rendimento di tutte le forme offerte dal mercato. Per cui quella che ho io posso andare a vedere magari le più simili, quanto hanno reso, e se effettivamente la mia è completamente fuori rispetto agli altri, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. E quindi fare il confronto attingendo a dei dati che sono di fatto imparziali, no? Perché pubblicati da un soggetto imparziale, super partes. Dall'altra, considerare i costi, perché i costi è chiaro che abbattono il rendimento. Quindi gli elementi e anche i costi sono pubblici sempre sul sito della COVIP, quindi nella valutazione bisogna tener conto di tutte queste variabili. Ma ci ritorneremo su questo argomento, il tempo è sempre tiranno, ritorneremo naturalmente sul tema del fondo pensione. Fausto da Caserta, in 5 secondi, qual è la terza forma di previdenza complementare? I PIP, pensionistici. Piani individuali pensionistici, a Fausto il libro. Grazie a tutti per essere stati con noi, a Nadia Vavassori, ad Anna Maria Trobò. Noi torniamo domani alle 10:30. Buona giornata.